sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ad Haiti trema ancora la terra, scossa del sesto grado della scala Richter. Processo breve, in corso il voto al Senato, passa in commissione il DDL lavoro, l'apprendistato vale come ultimo anno di scuola. Crisi napoletano, non sottovalutare le difficoltà, aumentano a novembre fatturato e ordini nell'industria. L'attentato sventato all'ex sindaco di Gela Crocetta, Radio 24 denuncia, quando vado a Bruxelles non ho la scorta. Buona giornata da Annalita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque, in primo piano ancora ad Haiti, perché c'è stato nuovamente panico a Port-au-Prince, svegliata da una nuova forte scossa di terremoto. Questo mentre continuano ad essere estratte, per fortuna, persone anche vive dalle macerie. Ma ci racconta tutto in diretta Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, come dicevi, è ancora paura nella capitale di Haiti, che è stata svegliata nella notte da una scossa di magnitudo 6 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a 56 chilometri dalla capitale. Si sono avute scene di panico ovviamente tra la gente che si è riversata in strada. Per ora non si sa se ci sono ulteriori vittime. Intanto è sempre più polemica sugli aiuti. Il presidente haitiano Prevala ha parlato di soccorsi internazionali tempestivi ma scarso coordinamento. Ma sentiamo Costas Moscocoritis, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia. È un piccolo aereo di 12 tonnellate. Su questo aereo domenica notte è stato impedito di atterrare a Port-au-Prince per ben 3 volte, anche se aveva già l'autorizzazione, lo slot diciamo, per questo volo, era un volo autorizzato. Questa situazione è estremamente grave, perché parliamo di materiale e di rifornimenti medici di prima necessità. Senza questi non possiamo operare. Se neghi l'atterraggio di un aereo che porta, le do un esempio molto semplice, i macchinari per le apparecchiature per la dialisi, per i pazienti che soffrono dalla sindrome da schiacciamento, che è salvavita, allora vorrei sapere qual è l'altra priorità. Questa è la denuncia di Medici Senza Frontiere. Fra le buone notizie segnaliamo che nelle ultime ore sono stati estratti un bambino e una bambina di 8 e 10 anni dalle macerie di una palazzina di 2 piani della capitale. Il bilancio complessivo delle persone estratte fino ad oggi vive dalle macerie è di 121 persone, ma le speranze di trovare ancora sopravvissuti sono poche. Al Caribbean Market, dove si trovava l'italiano Antonio Sperduto, le ricerche sono state interrotte. Il numero dei dispersi italiani è sceso così a 2. A te la linea. Grazie Valentina. E dall'adozione dei bambini di Haiti era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Il dramma nel dramma si legge negli occhi delle migliaia di bambini di Haiti sopravvissuti al terremoto ma rimasti senza famiglia, orfani per i quali si è già scatenata una corsa internazionale all'adozione. Ma vi chiedevamo oggi nel nostro sondaggio: è giusto secondo voi adottarli e portarli in Italia, lontano dal loro paese, magari sull'onda dell'emozione? Il 55% di voi ha detto no. Il sottosegretario Giovanardi, che presiede la Commissione Adozioni Internazionali, predica prudenza. Siamo rispettosi delle regole. Si adotta un bambino adottabile, un bambino orfano. Dopo mica essere adottato un bambino che aveva dei parenti. Dopo lo tsunami, il 98% dei bambini che sembrava fossero orfani, è stato rintracciato il padre, la madre, il nonno, la famiglia, e hanno risolto il loro problema. Non è che si possa andare a pigliare dei bambini come dei pacchi ad Haiti senza avere una verifica, come stanno facendo le associazioni che abbiamo finanziato ieri, un'attività meritoria per vedere di ricongiungere i bambini, quelli dispersi, la loro famiglia. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24 torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. In primo piano ad Haiti, in primo piano anche a Palazzo Madama, dove si stanno per concludere le votazioni sul processo breve dopo le forti tensioni di ieri. In diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta, qual è la situazione? Sì, il Senato sta per votare il processo breve in diretta televisiva, sono in corso le ultime dichiarazioni di voto a titolo personale. Intanto il presidente Renato Schifani ha richiamato i senatori dell'Italia dei Valori che hanno esposto cartelli di protesta in aula e l'opposizione, diciamolo, continua a protestare, a ribadire che si tratta di un provvedimento per salvare il premier Silvio Berlusconi dai suoi processi. È stato molto acceso il dibattito in aula, da poco poi è terminato l'intervento del capogruppo PD Anna Finocchiaro, accompagnato dagli applausi dell'opposizione. Vergognatevi, ha detto Finocchiaro, è il 19° provvedimento ad personam dell'era berlusconiana. Per Ligotti dell'IDV la maggioranza non sa cosa significa l'interesse collettivo, per D'Alia UDC si tratta di un'amnestia di fatto. Dalla maggioranza invece la difesa che si tratta di una legge per rendere più agevole la giustizia, è intervenuto da poco il capogruppo PDL Maurizio Gasparri e anche poi l'intervento, c'è stato l'intervento di Federico Bricolo della Lega. Il nostro è il paese dei processi troppo lunghi, si sa quando iniziano e non quando finiscono, spiega Bricolo, che accusa il Partito Democratico di aver cambiato idea sul provvedimento. E tra pochissimo il voto in diretta televisiva. Per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, noi continuiamo a parlare di questo argomento, lo facciamo con un ospite che saluto e ringrazio, Stefano Folli. Buona giornata Stefano. Buongiorno, grazie a voi. Senti Stefano, allora ci siamo, tra pochissimo ci sarà la votazione, il clima continua ad essere pesante e l'approvazione di questo processo breve al Senato sarà un macigno sulla possibilità di un dialogo? Ma insomma, in qualche modo questa decisione era attesa, insomma si sapeva che la maggioranza sarebbe passata attraverso questo provvedimento. E ce n'è poi un altro, c'è il legittimo impedimento in discussione, che servirà anche questo a definire uno scudo giudiziario intorno al premier, e l'opposizione non poteva che opporsi in maniera veemente, guai a dare l'idea di qualche forma di intesa sotto banco, soprattutto adesso che mancano poche settimane alle elezioni regionali. E tutto questo serve a definire un accantonamento totale del confronto sulle riforme costituzionali. No, io penso che sia possibile che ci sia un prosieguo di un dialogo che in realtà fino adesso non è mai cominciato, ma che potrebbe prendere forma dopo le elezioni, una volta sedimentato il riflesso di questo provvedimento comunque controverso e che lascia le anime, non c'è dubbio. E poi ci sono le regionali, quindi insomma il clima diventa anche più pesante per questo. Stasera ci sarà la riunione dell'ufficio di presidenza del PDL, si parlerà ovviamente di Casini, ago della bilancia. Secondo te che cosa si può intravedere in vista delle regionali? È evidente che Berlusconi non vuole concedere a Casini esattamente questo ruolo, quello di ago della bilancia, non vuole che si immagini che il partito di Casini sia in grado di determinare il risultato ora a destra, ora a sinistra in un certo numero di regioni. Berlusconi difende politicamente la sua maggioranza, la sua coalizione, difende anche l'idea di bipolarismo che viceversa vuole incrinare e in prospettiva abbattere. Quindi questa è la posta in gioco intorno alle alleanze delle regionali. Secondo me poi in alcune zone queste alleanze non saranno sottoscritte con dall'altra parte, diciamo, c'è un interesse convergente anche dei parti di Casini di non sottoscrivere, per esempio al di sopra del Po, come dice la Lega, no? Lì non mi pare che ci sia la possibilità di grandi accordi tra centrodestra e Casini. Penso che a Roma, salvo colpi di scena, invece l'alleanza tra l'UDC e il centrodestra sarà confermata. Penso che la Polverini godrà dell'appoggio del partito anche del partito di Casini. Grazie a Stefano Folli. Noi proprio con Roma ci ricolleghiamo nuovamente con Elisabetta Fiorito, perché la votazione è in corso. Elisabetta? Sì, è stato approvato il provvedimento sul processo breve. L'Aula del Senato ha votato con 163 sì, 130 no e 2 astenuti. Ricordiamo che il disegno di legge sul processo breve passa adesso all'esame della Camera. A te Anna Rita. Grazie Elisabetta. E alla Camera ci saranno prevedibilmente nuove tensioni. La possibilità di assolvere l'ultimo anno di obbligo scolastico anche in percorsi di apprendistato lo prevede un emendamento al DDL Lavoro collegato alla finanziaria che è stato approvato oggi dalla Commissione Lavoro della Camera. Lunedì approderà in aula per poi tornare al Senato per il via libera definitivo. Ci spostiamo negli Stati Uniti, le prese con la difficile gestione degli aiuti ad Haiti. Da oggi per Obama una nuova tegola. Il repubblicano Scott Brown ha strappato ai democratici il seggio del Massachusetts, che era di Ted Kennedy, e complica così i piani del presidente per una veloce approvazione della riforma della sanità al Congresso di Washington. Ne parleremo diffusamente alle 13.45 in America 24 con il nostro Mario Platero. L'altro fronte all'estero caldo resta la Nigeria, dove è salito ad almeno 288 morti il bilancio delle violenze religiose scoppiate 3 giorni fa nella città di Jos, dove le autorità hanno imposto il coprifuoco. Sentiamo il racconto di Leonello Fani, capo progetto della ONG Apurimac, che in Nigeria cura alcuni progetti di formazione sanitaria per la cooperazione e lo sviluppo italiana. Non si sentono più spari, almeno in città. E se ne sentono qualcheduno di avvertimento, credo. Comunque il coprifuoco è stato confermato per 24 ore ancora oggi. Ci dicono che le rivolte comunque si sviluppano a macchia di leopardo. La città sembra essere ormai tranquilla, e per tranquillo si intende che se sono intervenuti i militari comunque sono stati fatti dei massacri. Però adesso la periferia e le campagne sono piuttosto accese, ecco. Si continua ad uccidere, a sparare, a bruciare chiese, moschee, eccetera. Ancora stamattina. Un altro dato, diciamo, oggettivo è che non c'è stato nessun invito alla calma da parte del governatore né da parte del mondo politico, se non cose sporadiche, cioè non ufficiali. E questo, diciamo, integra il quadro della situazione, cioè come se la politica di questo Stato, dello Stato di Plateau, non abbia nessun interesse a placare le azioni che gli indigeni fanno contro i non indigeni, che si traduce poi nello scontro tra cristiani e musulmani, per semplificare, ma il reale scontro è tra indigeno e non indigeno. Nuovo capitolo nel braccio di ferro che contrappone la Cina agli Stati Uniti per una serie di attacchi informatici. Dopo il caso denunciato da Google, ora entra in scena un nuovo protagonista. Si chiama Baidu ed è il principale motore di ricerca su internet in Cina, con una quota di mercato superiore al 62%. Là Google arriva appena al 14%. Oggi Baidu ha presentato una denuncia negli Stati Uniti perché la negligenza di una società che fornisce accesso ai propri server avrebbe favorito un attacco di un gruppo che si presenta come il cyber esercito iraniano. Lo stesso gruppo era stato protagonista di un attacco analogo a Twitter in dicembre. La denuncia arriva nel bel mezzo del braccio di ferro che contrappone Google a Pechino, accusato, seppur non direttamente, di avere violato le email di alcuni attivisti per i diritti umani e di spionaggio nei confronti di decine di aziende americane. Quelli degli ultimi giorni sono ulteriori segnali di una escalation che gli esperti stanno registrando da mesi. Terroristi, ma anche servizi segreti, sono alla caccia di informazioni su internet. E se il nostro ecosistema economico e sociale vive oramai di dati distribuiti in rete, la loro protezione è diventata un fattore strategico per le aziende, ma sempre più anche per lo Stato. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13.17, ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di Haiti, che si è svegliata sotto una nuova scossa di terremoto. Tanta paura, una scossa del 6° grado della scala Richter. Ma proprio pochi secondi fa è arrivata da Haiti una buona notizia. Una bimba di 23 giorni è stata estratta viva dalle macerie di Yacmel. Abbiamo parlato anche del processo breve che è stato approvato in Senato e passa ora alla Camera in un clima di forte tensione. Passata in Commissione anche il DDL Lavoro, l'apprendistato vale come ultimo anno di scuola. Adesso parliamo invece di economia, come avevamo anticipato prima del collegamento con la viabilità. Parliamo di crisi economica, della quale si è discusso, alla quale ha fatto cenno a Roma la consegna dei premi Qualità Italia Leonardo 2009 al capo dello Stato Napolitano. Ha parlato anche la presidente di Confindustria. E noi ci colleghiamo in diretta con Roma con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, è stata l'occasione quella della cerimonia di consegna dei premi Leonardo 2009 al Quirinale per fare il punto sulla situazione economica dell'Italia. Ci sono ancora difficoltà che non si devono sottovalutare, ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, secondo il quale tuttavia siamo un paese vivo che si batte con tutte le sue energie e merita di vedere le sue risorse sostenute dall'azione pubblica e pienamente valorizzate nel confronto con il resto del mondo. Ottimista il Ministro per lo sviluppo economico, registriamo tra le imprese, ha detto Scajola, un rinnovato clima di fiducia, una maggiore propensione all'export, una ripresa degli ordini esteri. Secondo la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, il 2010 sarà ancora un anno difficile e la strada per uscire dalla crisi è quella di valorizzare le eccellenze, la ricerca, l'innovazione e l'investimento, trasformandoli in priorità del sistema paese. L'Italia, ha detto ancora la Marcegaglia, ha tanti problemi ma forse alla fine è meglio di quanto appare. Anna Rita. Vincenzo, volevo farti un'altra domanda, perché sono stati diffusi anche oggi i dati sull'Istat, quelli dell'Istat relativi agli ordini nell'industria, i dati che sembrano positivi, migliori delle attese quantomeno. Sì, è così che qualcosa si stia muovendo in positivo, lo certifica anche l'Istat. Il fatturato dell'industria è aumentato a novembre dell'1,5% rispetto a ottobre e diminuito del 5,8% rispetto a novembre 2008, il momento più grave della crisi. Segno positivo anche per gli ordini dell'industria, più 2,6% a novembre rispetto a ottobre, mentre sono rimasti invariati anno su anno. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, noi ci spostiamo a Napoli dove il ministro Maroni è intervenuto al convegno Imprese più competitive senza la tassa della criminalità. Nel pomeriggio il ministro sarà a Caserta, lo ha intervistato Laura Viggiano. Sì, oggi pomeriggio discuteremo a Caserta proprio delle situazioni di degrado che ci sono in quelle zone, in quelle aree, ma come ho già detto non è una questione di ordine pubblico, bisogna intervenire in modo coordinato, noi lo faremo assieme alle istituzioni, comune, provincia e la regione, per risanare una situazione che rischia di esplodere in un problema di ordine pubblico. E quindi chiederò alle istituzioni e alla regione, dopo l'incontro di oggi, un incontro per valutare gli interventi che ciascuno deve fare sul piano della sicurezza, sul piano del contrasto all'immigrazione clandestina, ma anche sul piano delle politiche abitative che non competono a me, e delle politiche di carattere sanitario che competono alla regione. Quanto bisognerebbe investire in tutto questo, visto che lei appunto parlava anche di investimenti in sviluppo, proprio per evitare tutta avanti una serie di questioni, anche la riorganizzazione sul territorio? Tanto bisogna investire, tanto. Ci spostiamo in Sicilia, sventato dalla DDA di Caltanissetta un piano delle cosche per uccidere l'ex sindaco di Gela, Rosario Crocetta, ora parlamentare europeo del PD ed una parente di un magistrato del tribunale nisseno. 5 le ordinanze di custodia cautelare notificate in carcere da altrettanti esponenti di spicco dei clan. Per Crocetta, da tempo nel mirino della mafia, si tratta dell'ennesimo attentato sventato. Quando vado a Bruxelles non ho nemmeno la scorta, ha denunciato al microfono di Maria Luisa Pezzali. Si riconferma un piano criminale, cinico, e questa è Cosa Nostra che può condannare a morte della gente e pensa che lo dovrà fare. C'è un'organizzazione criminale nel nostro paese che decide sulla vita degli altri, le organizzazioni criminali decidono, e io mi trovo drammaticamente a coesistere con questo problema da anni e oggi ancora in modo più grave, perché mentre io mi chiedo, stamattina questa notizia mi è arrivata a Strasburgo, dove la Francia mi ha concesso delle forme di tutela e di protezione, ma se mi fosse arrivato a Bruxelles, dove io ogni mattina esco di casa pensando che fosse l'ultimo giorno che esco, rientro a casa la sera forse pensando che è l'ultima sera che rientro, dove le autorità belga in modo cinico e irresponsabile continuano a non darmi alcuna protezione, e le autorità italiane non riescono a fare rispettare le prerogative di un proprio parlamentare eletto al Parlamento europeo che rischia la vita, io mi chiedo come drammaticamente avrei preso questa notizia lì. Il problema è che alcuni stati europei tentano a sottovalutare il problema della mafia, pensando che la mafia sia un fenomeno solo siciliano e italiano, invece in ogni caso quando stai in un paese dove non hai nessuna protezione, non credo che la mafia ci impieghi molto a pensare di come farti fuori. Lei non è più sindaco di Gela, perché dà ancora fastidio? Il Intanto perché Cosa Nostra non dimentica mai i danni che sono fatti. Poi io, guardi, non è che mi sono limitato a fare gli atti amministrativi, io ho fatto anche le denunce, cioè io per anni sarò testimone in processi, in dibattimenti, ancora per tanti anni. E da Palermo la storia e la richiesta di aiuto dell'imprenditore Bernardo Raimondi, vittima di usura che ha perso tutto ed ha un figlio disabile. L'ha intervistato Paolo Piacenza. Io sono stato vittima di usura e di estorsione contemporaneamente. Nel 2003 sono stato costretto a chiudere l'attività, a vendere la casa, a vendere tutto ciò che mi era possibile perché proprio non ce la facevo più, ho licenziato 8 operai. Tra l'altro erano tutti messi in regola, quindi nel massimo rispetto, io faccio cose in terracotta, ceramica e via dicendo queste cose qua. Da 2006 ho cominciato a collaborare perché ero stato minacciato abbastanza pesantemente e quindi ho cominciato a collaborare con le forze dell'ordine, con la Guardia di Finanza, la magistratura, eccetera, eccetera, facendo il nome, testimonianze, insomma. E il problema è che ancora tutt'oggi non ho lo status perché c'è un'indagine, questo, quell'altro, tutta una serie di burocrazia che però a me non mi interessa. Io posso essere d'accordo fino a un certo punto, però quando una famiglia, che tra l'altro ha un figlio disabile che ha anche dei problemi e mi comporta non poche spese, insomma, abbandonato completamente, si sente abbandonato completamente dall'istituzione, dalle associazioni anti-racket, che secondo me di quello che so io, che sono infilato lì dentro a Palermo, ora esistono senza nessuna identità perché mirano soltanto alla politica e allo scopo di lucro. E allora loro sono costretto, mio malgrado, a fare questo atto, che non è più un atto dimostrativo, ma un atto necessario, insomma, da poter tirare avanti e dare un po' di dignità, serietà in futuro alla mia famiglia. Cioè, lei cosa ha deciso di fare? Il fatto di vendere un rene, ecco. Prima magari l'avevo fatto lo stesso l'anno scorso come un atto di provocazione, che però è servito quasi pochissimo, solo qualche persona umile e solidale, perché le istituzioni sono state assenti totale, non si è fatto sentire nessuno. Oggi anzi mi ha telefonato il Presidente della Commissione Antimafia di Palermo e mi vuole sentire di pomeriggio per vedere come mi può aiutare, però le risposte sono sempre le stesse, sono risposte vaghe, promesse e nient'altro. Lo sport, Formula 1 a Barcellona, 2 giorni di test per Valentino Rossi sulla Ferrari. Sarà stata l'emozione che a volte attanaglia anche un pluricampione del mondo o la responsabilità di avere a sua disposizione per la prima volta il circuito del Montmeló ed un intero staff di oltre 20 persone del team di Maranello. Sta di fatto che dopo 2 soli giri la F2008 di Valentino Rossi si è fermata sull'asfalto catalano dopo un testacoda. Il lavoro era iniziato intorno alle 10.30, già la temperatura piuttosto bassa, intorno ai 10 gradi, e la giornata umida non erano l'ideale per impostare al meglio la sessione di test. Dopo una prima tornata di controllo, i tecnici Ferrari al muretto non hanno visto rientrare la posto di Rossi, fermata da un problema nella parte finale del tracciato tra le curve 10 e 15. I meccanici hanno consigliato a Valentino di spegnere il motore della vettura, che non ha subito alcun danno ed è stata trainata ai box con a bordo il pilota, che ora avrà a disposizione un'altra monoposto. Rossi potrà provare fino a domani, è la sesta volta che sale alla guida di una Ferrari da Formula 1. La prima nel 2004 fu quasi un gioco, ma adesso sembra che si faccia tremendamente sul serio. L'introduzione dal 2011 di una terza monoposto per il top team sembra un'ipotesi disegnata apposta per lui, sempre che decida di passare definitivamente dalle 2 alle 4 ruote. Massimo Di Cenza, GR24, Il Sole 24 Ore. 50 anni fa moriva improvvisamente in un incidente stradale, ma ancora a parlare di lui suscita polemiche in Francia. Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de... Il ruolo dello scrittore non si può separare da doveri difficili. Oggi non si può mettere al servizio di chi fa la storia, ma è al servizio di coloro che la subiscono. Così parlava Albert Camus il 18 dicembre 1957, giorno in cui gli consegnarono il premio Nobel. 2 anni e qualche giorno dopo sarebbe morto in un incidente stradale. In questi giorni il presidente francese Nicolas Sarkozy ha pensato di trasferire le sue spoglie al Pantheon, ma qualcuno ha preso la dichiarazione per un affronto. Già nel 1946 Camus, giornalista su Paris Soir e poi su Combat, aveva pubblicato una serie di articoli dal titolo Né vittime né carnefici. Nel 1950 intervenne pubblicamente nel dibattito tra Togliatti e Silone sulla rottura col PC in nome delle ragioni della libertà. Nel 1951 infine ruppe a sua volta con Jean-Paul Sartre. Fu un vero scandalo, racconta sua figlia Catherine. Molti si allontanarono da lui. La mère de Camus ne put pas pleurer. Elle mourut 6 mois plus tard. Intanto, 50 anni dopo, il grande pubblico l'ha visto in una fiction TV di successo. L'intera opera è stata ripubblicata in una nuova edizione nella prestigiosa collezione La Pléiade. 64 autori hanno contribuito alla stesura del dictionnaire, ma il dibattito sulle pagine dei giornali e anche in politica continua. Come disse gli stesso, però, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante. Lo scrittore può ritrovare il senso di una comunità viva che lo giustifichi alla sola condizione che egli accetti due grandi impegni che fanno la grandezza del suo mestiere, il servizio della verità e quello della libertà. E celui della libertà. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie in regia a Fabio Cantadori. Vi lascio in compagnia di Daniele Biacchessi con Italia in controluce. A seguire America 24, il GR invece torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.